Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno, se ci ascoltate di mattina presto, di buon'ora alle 6.45, buon fine serata se state ascoltando questa puntata alle 20.45, quindi oramai la sera si avvia a conclusione. Vi ricordo l'indirizzo mail al quale segnalare le vostre riflessioni o le vostre proposte: unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog, basta digitare su un motore di ricerca blog Roberto Galullo, lo trovate, altrimenti sull'home page del Sole 24 Ore troverete Guardie o Ladri, in cui appunto, come ormai sapete, parlo di diritti violati, di illegalità e della mia grande passione, vale a dire la criminalità organizzata. Ieri 10 febbraio 2009 è stata celebrata la giornata del ricordo in memoria dei martiri delle foibe. I giornali ne hanno parlato, moltissime polemiche ci sono state anche per i tanti silenzi. Ma il 10 febbraio 2009 segna anche un altro anniversario in memoria di un politico, l'ex sindaco di Firenze, Lando Conti, che fu ucciso esattamente il 10 febbraio 1986 mentre si recava ad una seduta del Consiglio Comunale. 11 colpi di pistola. La rivendicazione fu fatta dalle Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente. A distanza di 23 anni da quell'omicidio, sicuramente la memoria degli italiani si è persa, perché siamo un popolo che dimentica la storia, siamo un popolo che dimentica chi ha pagato con il sangue la salvaguardia dei diritti e quindi ha pagato con il sangue il fatto di aver eretto dei muri a salvaguardia di quei valori. Noi ne parliamo oggi perché ieri è stato un giorno che è passato in sordina anche nella Firenze dell'ex sindaco Lando Conti. E per parlarne noi abbiamo oggi ospite il figlio, Lorenzo Conti. Benvenuto Conti. Buongiorno a tutti. Lei ha mandato una lettera aperta ai giornali, alle redazioni e suppongo anche al Comune di Firenze, in cui dice: doveri espletati, diritti negati. La Presidenza della Repubblica si è dimenticata in 23 lunghi anni di concedere a mio padre, Lando Conti, la medaglia d'oro al valor civile, anche se doverosamente lei ha ricordato che in maniera molto burocratica la finanziaria 2007 prevede a tutte le vittime di terrorismo il riconoscimento della medaglia d'oro. Allora le domando: ma perché la stessa Firenze, che tanto ha amato suo padre, si è dimenticata di ricordarlo in maniera non semplicemente commemorativa, come pure è avvenuta? Ma è un problema di carattere generale, purtroppo. L'attenzione non c'è più verso queste persone che hanno dato la vita per difendere lo Stato. Purtroppo l'attenzione si è spostata verso i terroristi, cioè coloro che offendevano lo Stato, e questo rientra purtroppo nella memoria appunto del paese. Fa male a noi figli, che abbiamo visto perdere i nostri genitori, i nostri padri, i nostri figli stessi. Però è così, purtroppo è così, ed è dura da digerire. È dura da digerire, però suppongo, Conti, che rassegnarsi è un altro discorso, vale a dire non sicuramente bisogna lasciarsi andare a momenti di rassegnazione. Lo dico perché lei invece è, al contrario, una persona estremamente combattiva. A me ha sorpreso anche un'altra sua presa di posizione allorquando è stata archiviata dal procuratore di Firenze Giuseppe Quattrocchi pochissimi giorni fa la nuova inchiesta che era stata aperta sul filone di alcune rivelazioni che erano state fatte da una collaboratrice di giustizia, la brigatista Cinzia Banelli, perché ricordiamoci che per l'omicidio di suo padre ci sono state delle condanne definitive all'ergastolo e anche pene diverse, 30 anni inflitte a Marco Venturini. Ecco, a lei non è piaciuto quel gesto, quell'archiviazione. Allora le domando, a distanza di 23 anni, che cosa a suo giudizio non è stato raccontato dell'omicidio di suo padre? Ma non era stato raccontato niente, di fatto, perché se si pensa che mancano ad oggi i due esecutori materiali dell'omicidio e i cinque che parteciparono, diciamo, direttamente all'agguato, perché in tutto erano 13 terroristi, è chiaro che vuol dire che manca tanto, e questo si fa sentire tutti i giorni. Cioè, io vorrei capire, Dove sono oggi questi due esecutori materiali? Stanno girando tranquillamente per la città di Firenze? Qualcuno sa chi sono? Oppure non lo so, manca troppe cose. Ecco, manca troppe cose. Prima di fare un'altra domanda le chiedo questo. Sono state fatte molte congetture sulla morte di suo padre. Perché è stato ucciso suo padre secondo quella che è la verità del figlio? Perché era un uomo scomodo. Era un uomo, era il braccio destro del ministro di allora Spadolini, che era il ministro della difesa. Era un massone ed era una persona molto ben vista a Firenze. E questo ha dato noia a una certa parte della classe politica da allora. Ecco, lei alcuni mesi fa, diciamo un anno e mezzo fa, è stato minacciato di morte dai brandelli di ciò che rimangono delle Brigate Rosse. Lei stesso dunque è stato minacciato di morte. La sua colpa sarebbe quella di cercare, mi corregga se sbaglio, la verità sulla morte appunto di suo padre. Le rimproverano il fatto di aver implorato giustizia, di essersi scagliati contro la memoria, così scrivevano questi brigatisti, di compagni, come loro li chiamano, reclusi in carcere. E allora le chiedo questo qui, ma che idea si è fatta sul fatto che oggi impunemente degli assassini o persone che stanno vicino a degli assassini continuano tranquillamente a lanciare proclami e minacce di morte? Chi e come li difende? Chi e come li difende è molto difficile da dire. Sicuramente sono tutelati, perché basta vedere anche nell'ultimo processo di qualche giorno fa cosa hanno fatto a professor Ichino. Sì. Però vuol dire è tutto un insieme di un concatenarsi di atteggiamenti che questo Stato ha nei confronti degli ex terroristi e a scapito, diciamo, delle parti invece che sono le vittime del terrorismo. E in questo momento è molto difficile capire, per esempio, un governo che è molto impegnato a fare stradare Battisti, però non ha fatto altrettanto per far rientrare in Italia l'ex terrorista Petrella. Quindi ci sono degli atteggiamenti che sono difficili da interpretare e questo fa venire fuori dei cattivi pensieri. Possiamo spingerci a dire che l'archiviazione è frutto di questo compromesso politico, vale a dire il governo è impegnato nel momento in cui c'è il clamore, vedasi Battisti, e probabilmente non solo il governo, intendo dire, ma la politica in generale è impegnata a mettere il silenziatore, a far tacere determinate verità scomode da ricercare, perché è meglio chiuderla una certa pagina del nostro paese cupa, e quindi meglio un'archiviazione piuttosto che andare a cercare chi sono coloro i quali materialmente poi hanno sparato a suo padre. Questo senza ombra di dubbio. C'è stata la volontà proprio politica generale del paese di voler chiudere velocissimamente questo capitolo della storia. Poi è successo che con l'omicidio di D'Antona, di Biagi e poi del poliziotto Petri si è invece riaperto un capitolo che si pensava fosse chiuso per sempre. E sicuramente io penso che la Procura di Firenze abbia fatto un ottimo lavoro iniziale, poi dopo sicuramente è andata anch'essa verso questa direzione, cioè la direzione di dire chiudiamo un capitolo di storia, ecco. Però purtroppo dietro c'è delle storie di famiglie. Assolutamente, noi siamo qui anche per aprirle queste storie, chi segue la trasmissione sa che ne parliamo spesso e volentieri. Lei ha richiamato il percorso massonico di suo padre, mi fa piacere che l'abbia tirato fuori lei, perché vorrei cercare di capire se la massoneria deviata può aver avuto comunque un ruolo anche nell'insabbiamento o nell'omertà di quelli che sono stati gli anni successivi all'omicidio di suo padre? Io penso che questo ruolo ci possa essere stato nella realtà, perché mio padre fu uno dei sostenitori praticamente di condannare la P2 e quindi condannando la P2 può darsi che abbia dato noia a qualcuno il suo atteggiamento, però non so se francamente dietro ci sono servizi deviati o no, francamente non me ne interessa nemmeno. Ma quello che conta per me è che ci sia oggi la volontà o meno di arrivare alla verità. E quindi questo non lo vedo. Certo, quindi di aprire tutti i capitoli. Tutti. compreso dunque quello che potrebbe portare a interessi deviati, qualunque essi siano. Io ringrazio per il suo intervento Lorenzo Conti, figlio dell'ex sindaco di Firenze Lando Conti, assassinato 23 anni e un giorno fa. Grazie per il suo intervento, grazie regia Fabio Cantadori, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. We'll be right back.